L'asta dei bot e lo spread in diretta a Deborah Rusciani. Sì, tra l'altro dopo queste operazioni hanno accelerato a rialzo anche gli indici di Piazza Affari sulla scia, come dicevi Daniele, dell'esito dell'asta odierna di bot a sei mesi che ha visto crollare il rendimento medio per questi titoli al 3,25% dal 6,5% che era stato dovuto riconoscere agli investitori a fine novembre. Rendimenti in calo anche all'asta dei CTZ a due anni, dunque chiari segnali di un allentamento delle tensioni sul debito pubblico italiano, peraltro chiari segnali di allentamento che si sono trasferiti anche sullo spread fra i rendimenti di BTP a 10 anni e i Bund tedeschi. Questa mattina è ripartito intorno ai 500 punti base, è scivolato a 482 con il rendimento del titolo decennale che è scivolato al 6,75%. Dicevamo appunto che il mercato azionario ha risposto bene anche a tutta questa operazione con le banche che hanno ripreso a correre, mentre l'indice principale di Piazza Affari, il FTSE MIB, è in rialzo di circa l'1,2%. Volevo solo ricordare che i bot a sei mesi assegnati sono stati per un importo pari a 9 miliardi, mentre per quello che riguarda i CTZ sono stati assegnati 1 miliardo e 733 milioni di euro, un importo che si è comunque collocato nella parte bassa della forchetta compresa inizialmente prefissata tra 1 miliardo e mezzo e i 2 miliardi e mezzo. Direi che per ora è tutto. Grazie Deborah Rusciani. Nel pomeriggio è prevista la riunione del Consiglio dei Ministri con cui il governo vara o varerebbe la fase 2, tale ipotesi di rincari delle autostrade e prestito forzoso. In diretta Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno. Con il Consiglio dei Ministri di oggi si apre ufficialmente la cosiddetta fase 2 incentrata su crescita e sviluppo, una riunione che serve innanzitutto a fissare una tabella di marcia da qui ai prossimi mesi, anche se non escluso che possano vedere già la luce i primi provvedimenti come quelli sulle liberalizzazioni che erano presenti nella prima versione del decreto Salva Italia e poi cancellati. Addirittura d'arrivo ci sarebbe anche un decreto interministeriale che adegua le tariffe autostradali, ma come si diceva la riunione è soprattutto un primo giro di consultazioni per mettere a fuoco le misure sulla crescita, oltre alle liberalizzazioni, le privatizzazioni, lo sblocco delle infrastrutture, la riforma del mercato del lavoro sulla quale il ministro del welfare Elsa Fornero deve cercare però di ricucire il dialogo con i sindacati, e ancora la riforma del catasto con adeguamento del patrimonio edilizio italiano ai valori di mercato, una riforma già pronta ma che necessita di alcune limature. Si parlerà anche di un programma di contenimento della spesa pubblica per tagliare spese e sprechi, una roadmap che serve anche a dare un segnale ai mercati, un segnale che il governo lavora nonostante le feste natalizie, che Monti illustrerà domani in occasione della conferenza stampa di fine anno. E da Roma è tutto. Grazie dunque Alessandra Schepisi. Intanto sul fronte politico ci sono i malumori nel Popolo delle Libertà, è così Andrea Viali? Sì, è così Daniele. In vista di questa cosiddetta fase 2 crescono le pressioni sul governo da parte delle diverse forze politiche che fanno parte della maggioranza e crescono anche e soprattutto i malumori all'interno del Popolo delle Libertà. La cura Monti rischia di uccidere il paese, è l'avvertimento lanciato oggi da Osvaldo Napoli, il vicepresidente dei deputati del PDL, invita il premier a fermare le macchine e ad incontrare le forze politiche che fanno parte della maggioranza per rivedere la politica fiscale. Il PDL, dobbiamo dire che a sua volta subisce intanto il pressing della Lega, che chiede invece di staccare la spina al governo, governo al quale ribadisce invece il suo sostegno incondizionato l'UDC di Casini, che invita i partiti alla responsabilità perché dice la crisi non è ancora alle spalle. Chiede invece di ammorbidire gli interventi sulle pensioni il PD, che conferma comunque il sostegno a Monti, il suo programma però non è il nostro, sottolinea oggi in un'intervista il responsabile economico Fassina, secondo il quale la fase 2 poi non può non passare anche attraverso l'Europa e per questo Monti dovrebbe intervenire anche per far modificare le politiche economiche che sono state imposte dalla Germania. Per ora è tutto Daniele. E alle 13:04:35 parliamo di evasione, sono 11 miliardi di capitali all'estero che sono fuggiti, secondo alcuni, in modo illegale. 11 miliardi di euro. La fuga illegale di capitali all'estero ha totalizzato nel 2011 più o meno un quarto dell'intera base imponibile evasa, ben 46 miliardi, individuata dai controlli. La cifra risulta dalle nuove stime della Guardia di Finanza, che ha registrato un picco notevole di esportazione illecita della valuta tra ottobre e novembre, il 50% in più rispetto alla vigilia dell'estate. Era il momento clou delle ultime settimane del governo Berlusconi, lo spread ai massimi e l'Italia da più parti considerata sull'orlo del bar. E le zone calde in cui sono state accertate le violazioni dalle fiamme gialle sono state Pontechiasso, Malpensa, Fiumicino. Di questi 11 miliardi, il 26% è stato sottratto al fisco attraverso società con sede legale all'estero e attività produttive stabili ma sconosciute in Italia. Il 18% con la vecchia esterovestizione di società e persone fisiche, cioè fissando all'estero la residenza fiscale di chi le tasse le dovrebbe pagare in Italia. Il 17% con un gioco di prestigio detto transfer pricing, trucco usato dalle imprese multinazionali che vendono beni o servizi a prezzi ribassati e fittizi alle consociate straniere per evitare le tasse in Italia e concentrarle sulla società del gruppo che gode del regime fiscale estero migliore. Il 39% con altri meccanismi evasivi, tra cui la valigetta 24 ore dei cosiddetti spalloni, piena di banconote da 500 euro fino a un totale di 6 milioni di euro. Lotta all'evasione a tutto campo. Spuntano anche negli aeroporti e nei valichi i cani addestrati ad annusare le banconote. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'età media degli italiani nel 2059 sarà 49,8 anni. La proiezione contenuta nello studio sul futuro demografico del paese realizzato oggi dall'Istat. Nello scenario centrale elaborato dall'Istituto di Statistica, l'età media aumenta a 43,5 anni nel 2011 fino ad un massimo di 49,8 anni nel 2059. Dopo tale anno l'età media si stabilizza su un valore di 49,7 anni. Ma nel 2065, questo è l'altro dato di questo rapporto e forse la vera notizia della giornata, gli immigrati saranno, pensate, il 24%. Palermo apre il 2 gennaio la stagione ufficiale dei saldi in Italia e spera in un recupero dopo il meno 18% fissato su scala nazionale degli acquisti prenatalizi. Giovanni Felice, presidente di Confesercenti Sicilia, al microfono di 24 Mattino. Ma diciamo che in proporzione anche qui il calo ha riguardato soprattutto il settore del tessile e delle calzature. Speriamo con i saldi un recupero, anche se le associazioni dei consumatori parlano di ulteriore calo. Noi speriamo che questo non sia vero, anche perché in Sicilia c'è una situazione contingente. Noi dipendiamo molto dal pubblico e il pubblico ad oggi non ha liquidato gli stipendi di dicembre e le tredicesime. Quindi speriamo che questo flusso di denaro che entra nelle tasche dei cittadini in qualche maniera rilanci l'economia. Sommiamo anche la disoccupazione dovuta ai grossi impianti industriali che hanno chiuso, Fiat su tutte, la preoccupazione per il futuro di molte società municipalizzate. Diciamo che c'è una mancanza di denaro ma anche molta paura per il futuro, e quindi diciamo che la crisi è figlia sia di una mancanza di denaro ma anche di preoccupazione per il futuro. E ora ci colleghiamo con Giampaolo Musumeci, perché nel suo programma tra poco si parla di pirati e di navi sequestrate. Sono molte le notizie di questi minuti. Sì, grazie Daniele. In realtà faremo il punto su quello che sta accadendo. Notizie di strettissima attualità non ce ne sono, nel senso che le ultime riguardano il cargo italiano Enrico Jevoli, sequestrato ieri, sarebbe in rotta verso le coste somale. Ieri un messaggio del comandante rassicurava sulle condizioni di salute dell'equipaggio. Oggi cercheremo di capire meglio come sta evolvendo il business della pirateria, questa macchina da soldi dei pirati, come gli stati si stanno difendendo, quindi quali armi, quali mosse messe in campo, o meglio in mare, dai moderni bucanieri, e quali le contromosse degli stati, in particolare dell'Italia, per difendersi da questo fenomeno. Accompagnate dalle voci rotte dal pianto dei commentatori, le state sentendo in sottofondo. La televisione di Stato nordcoreana ha mostrato le immagini in diretta della cerimonia funebre del leader Kim Jong-il, morto, lo ricordo, il 17 dicembre scorso. Migliaia i militari civili riuniti nella piazza centrale di Pyongyang, di fianco al feretro il figlio e l'erede Kim Jong-un. Veniamo alla cronaca, il calcio scommesse. Il legale di Nicola Santoni, ex preparatore dei portieri del Ravenna, smentisce l'esistenza di un'intercettazione ambientale che coinvolgerebbe Buffon, Fabio Cannavaro e Gattuso. Il giorno dopo la bufera è il momento delle precisazioni. Sulle prime pagine dei giornali i nomi di Buffon, Gattuso e Cannavaro. Malati di scommesse, li definisce in un'intercettazione ambientale l'ex preparatore dei portieri del Ravenna Santoni, che oggi attraverso il legale smentisce di aver mai conosciuto i tre azzurri. Lo stesso Di Martino ribadisce che nell'inchiesta non c'è nulla che conduca a loro. Oggi è il giorno dell'interrogatorio a Santoni. Si cercano riscontri sulle combine dell'Atalanta, che rischiano di portare a una pesantissima condanna al club bergamasco in un nuovo processo sportivo, perché i soci di Doni nell'interrogatorio hanno detto che la società era al corrente di tutto. E si cercano riscontri alle clamorose rivelazioni di Carlo Gervasoni. Nel mirino c'è soprattutto la Lazio, che smentisce qualsiasi coinvolgimento. Il pentito ha inserito le sfide contro Lecce e Genoa della passata stagione tra quelle manipolate. Il contatto degli zingari sarebbe stato un titolare della Rosa di Reia. Intercettazioni, racconti, tutto da verificare, ma il cerchio si sta allargando ben oltre le serie minori, dove fin qui è stato confinato. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24. 4 ore. Ci sono cose che fanno arrabbiare e che fanno anche star male. Questo personaggio si chiama Pisicelli, l'imprenditore. Non so se ve lo ricordate, perché fu il personaggio che rideva nel terremoto dell'Aquila. Ieri ha parcheggiato il suo elicottero in una spiaggia. Occupati di sta roba del terremoto, qui bisogna partire in quarta subito. Non è che c'è un terremoto al giorno, no? No, lo so. Non per dire, per carità, poveracci, no? Io ti dico stamattina alle 3:30. Io pure. Questa intercettazione tristemente famosa è agli atti di uno dei filoni d'inchiesta sugli appalti per G8 e grandi eventi. Si riferisce al terremoto dell'Aquila. Io ridevo stamattina alle 3:30 dal letto, la frase che sollevò lo sdegno di un paese intero. A pronunciarla l'imprenditore Francesco De Vito Pisicelli, arrestato per corruzione nel 2010, salito di nuovo alla ribalta della cronaca nelle ultime ore per quanto accaduto il giorno di Santo Stefano sulla spiaggia di Ansedonia all'Argentario. Di fronte a decine di persone incredule, un elicottero a terra sulla battigia. Ai comandi c'è Pisicelli, che una volta sceso prende sotto braccio l'anziana madre e la porta all'esclusivo ristorante sulla spiaggia, Il Cartello. Un uomo dalla personalità alquanto negativa, che ha più volte dimostrato di essere cinico e senza scrupoli, scrisse il GIP nell'ordinanza di custodia cautelare a carico dell'imprenditore che nel marzo scorso tentò di suicidarsi con i barbiturici. Una manovra d'emergenza dettata dal forte vento, si è difeso Pisicelli davanti ai vigili che gli hanno contestato l'atterraggio disinvolto. Nessuna segnalazione però è arrivata all'aeroporto di Grosseto, come le procedure per gli atterraggi di emergenza prevedono. Il verbale ora è all'esame dell'ENAC e della Procura di Grosseto. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 ore. Chiudiamo con la grande musica. Via da domani ad Orvieto la 19ª edizione di Umbria Jazz Winter. 5 giorni di musica fino al 1 gennaio, con più di 100 eventi per un appuntamento ormai tradizionale del jazz italiano. Oltre 100 i concerti, 150 musicisti impegnati. Sentiamo il direttore artistico di Umbria Jazz, Carlo Pagnotta. Jazz latino, ma non solo, perché abbiamo Michel Camillo, abbiamo Gonzalo Rubalcaba, Chano Dominguez, flamenco jazz dalla Spagna, ma poi ci sono gli italiani con dei progetti speciali, la Lydian Sound, che farà un progetto di arrangiamento, si chiama In Spanish Tinge, appunto perché siamo sul latino, ma farà anche un tributo a Thelonious Monk nel trentennale della morte. Poi progetti speciali di Paolo Fregio, progetto speciale di Petrella e Latin Mood di Fabrizio Bosso. Poi abbiamo 2 senatori, Renato Cellani col trio, ma abbiamo anche il quartetto di Franco Cerri per la prima volta. Riportiamo, dopo il successo di un paio d'anni fa, i Harlem Jubilee Singers, il miglior gruppo gospel. Li ripresentiamo ad Orvieto anche quest'anno. Danilo Rea, oltre che con il suo trio, novità assoluta. Questa volta sarà in duo con Michel Camillo, questa è un'altra novità. Il prossimo anno faremo il 20ennale e quindi già cominciamo a lavorarci. Sono le 13, 14 minuti e 16 secondi, termina qui il notiziario condotto e curato da Daniele Biacchessi. Le prossime notizie alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.